Friuli nel mondo, 174esima trasmissione dedicata agli emigrati. La Nestre Mari Leng. La rassegna poetica che oggi vi dedichiamo, cari amici in ascolto, intende esprimere l'anima di nostri validi scrittori legata alla loro terra con profondità di sentimento, con umanità e con proprietà di linguaggio. È questa una piccola antologia che riflette il carattere melanconico ma tanto umano di nostra gente, scelta dal vasto repertorio della letteratura friulana. Nella dizione di Ottavio Valerio ascoltate questi brevi componimenti. Al Ciacare il Vieli di Giso Fior, Il Cristo di Len di Lelo Cantoni, Radis, Stagionai e Preiera di Leonardo Zannier, Glesiutis di Campagne di Giuseppe Marchetti, Mari di Giovanni Lorenzoni, Parcemuri Pais di Domenico Zannier, Aquilee di Enrico Fruch. Al Ciacare il Vieli di Giso Fior. Aven, aven la neif cidina, malcur nal prova plui la pas di un viac, che volta al sglinghignava il chiadenac, che volta i murosavi la tunina. Lassù, tal fogolar di biazzo pari, un om d'invier tesser d'estat pastor, i lavi moscardin a fa l'amor. Nocenza al to permes, me chiara mari. Un fuc lusinte clar, una sflamada, e intant che il zuf buliva tal brunzin, ciuldissimi infresoni di chialin, i davi tic e tac una bussada. C'è biel che il tim lontan, ottuninuta, da vierte i lavi in Austria, a Linz, a Graz, e poi tornavi a iodi lux amaz, il fuc, il chiadenaz, la tomusuta. Ti pensi tu in che l'ango mettunina, che l'anchi si sintols ad inti sans, che volte ieri in giovins, ieri in sans, cumò la muar nus bala plui vicina, la muar che cencia cur na nus perdona, e insum mi ha detto che in brev nus chiolarà. Signor, faset che conchi sin di là, i vebi simpri a flanc la me parona. Il Crist di Len, di Lelo Chanton. Di Len, Temont, Cassù. Tesgnoz di sta, colin chiator li stelis, e di mattine, blancis e bielis, li schiolin su. Di Len, Temont, Cassù. Signor, te cros ti chiali, e tu se sbrut, mal fat, ma io ti prei, cence di te, di ban si va in denan. Tu ses di len, signor, ma sulla mont, talaier cal svintule, cal bruntule, o tenef che ogni robe se pulis, o tal clap dur e frete slis, tu, dome tu as vos, signor te cros, di len, tu, dome tu, bessol, cassù. Radis, di Leonardo Zannier. Veso mai io dut il vin tal bosc, un vin da sleva pezz, e i pezz colà, con che sradis come braz, come mans, che si tegni in tacera e non volin molà. Veso io dut che c'era a bars, che si distacca, e che sradis blanchias e agosas, che si crevi in tacera. E veso io dut un om cal partis, cal va, la sovalì spartiera e un canai paman e la femmina in pisca l'uchiala. Veso io duti siei voi, quant cacialin a tor, la sosmans, i siei braz, quant calascin che femmina, lo veso io duti. Stagionai, di Leonardo Zannier. la sala famea, la chiesa, il beart, l'ostaria, gli amis, las pedradas, un cil da sisiles, gli odors di una vita, strenzi tanavalis, i vestiti plens di bosco, i riquarz e las fotografias, un toc di formati, il livel, un salam, una chiaccia, dos coculas e una lagrima ingosada. Bussà la femmina, i fruz ridin, plens di paura di metis avai, e polà cun corriera se trenos, lontans, du la che laga, a un altri savore, no san fa la polenta, e il vin nol sa da nuia, e la inta appresa. Là, pensanta novembre, alla vacia caitocia, al pecol rodda l'oglia, dormintu una baracca, cun int carancusa, dopo venea a tabira, il riquard di noz, plenas di fo, e i dispiez dal canai, tas moschetas. Preiera di Leonardo Zanier. Parce a mi, signor, ogni an a mi, signor, che sta cross e che vuoi, sora sera, resta tantim, besola, in che stiet gran calcrice. Mi spuei al scur, signor, di paura di iodi. E non mi tocchi la chiar, signor, di paura di vai, di vosare. Mi hai cambiati l'insui, signor, avevin il suo odor, il nesti odor, io hai metus nes, di chei dal coredo, ma il mio quarp no, signor, il mio cor no, signor, non può scambiaiu, signor, mi scoltaiso, signor, mi scoltaiso, signor. Buonanotte, Tom, pensimi, sta ben, scriv, ven. Glesiutis di campagne di Giuseppe Marchetti. Grisis, cidinis, nudis, fur di man, o sotto un pol o d'ogni un cocolar, glesiutis, cence muini o chiampanar, o si sveais, ne volte sole adan. S'ingrusiniste ploe la campanele, l'arbe salvadie sulla puarte nas, al piule un passarin enfri dai clas e un rai sul balconu al fas la tele. Ma quanche la campagne eduar in pis of listelis, un svol di pellegrin s'agliemple il prat intor di cent lumins. Ed ucce ian un campanelli gris. Allora sull'altar torda l'incone che iagnunuz di len planchin si svein e saltin fur pescisis e riquein un braz di flor e u puartin e madone. Mari di Giovanni Lorenzoni. Dis un disagno a cavalò de scove o eri il caporion de baronie, paure di nisun, rispied di nie, an fasevi ogni tanto ne di nove. Se o potevi brincati palcudin e fati ciulà, erano ne gionde. Non mi tocchiava il cur, picciule bionde, dopo che il tovai cidin cidin. Ma un edì, co tornavi ad asi, mulinan qualche altre metristerie, beh, tu sei svoltate serie serie, col deduzzo la voce, a fa cotasi. Sta bon, che duar! E biel strenzinta al sen, come ne vere mari la pipine, tu mi astirà d'ogni di te, cidine. Ed in che dì forse ti hai volut ben. Passi gli anni, si cresse si strussie, cence mai pars, e infin la maravè, di chiatasia sei paris di famè, plens di speranze, plens di poesie. O tornavi di vore sul misdì, e tu sei svignude sulla quarta. E ti hai voi, sarai muarte, tu saras muarte, ma la luz di chei voi non può morì. Tu mi has ditto ne peraule tu ne orele, e po' di ghionde tu mi sei scolade tai brazzi. Con riverenze o ti hai bussato, lusive sul mio ci la prima stella. Qualche mes dopo, col frutto tal green, tu mi parevis come una madone. vares volut poiati une corone sul biel chiaf e adorati cence fin. Corin Iains, si pene si ciavarie, partira su consest la nidiade. Qualchi rue sul zarneli, une passate di blanc sul chiaf no contin, ce ti parie. La fontana de vite e butte fuart, la chiase non è mai senza speranze, e ven su intor ne nove fiolanze, i fis dai fis, pal nestri bon confuar. Ecco ti vio, affai la ninenane ai nevoz, mi ricordi che frutine cul dedut sulla bocchie e la pipine tal braz, in che zornate tant lontan. Mari in che volte, paristin dal cur, mari vere pitart detto canae, mari dai tiei nevoz, finte vecchiae, mari, c'è in quarti e dopo, se si mur. Parce morì Pais, di Domenico Zanier. Il cret al si colore di passion, e cul soreli batti intor la vite, ma il mio Pais temont, cul abbandon, al viot flurì pai murs la margarite. Non è tal tor di muscli une ciampane che suni e clami, non l'odore il fum sozzere depolente. A tramontane non rid la poeme cul chialdir dai siums. Ogni pais di monte pradarie disod dal bosc besol e bandonar. La glesiute blanche che s'impie in talamont e avuet il so sagrat. O cirune vilote cul riquart, un vel dispose i viei di chiase me e mi rispuin cidine l'atto muart. Tu no tu vivis plui, io o viv di te. Ogno pais di mont, ogno pais, parce morì tu amor, tu paradis. Aquilè, di Enrico Fruc. Contadin, che tu rompis la tiare di Aquilee, ferme i vus un momento. Sott il chiam che la guarzine are, sott la man che semene il forment, tal soreli e tal ombre del nul, è una impronte di Rome, e la storie e la glorie del mestri Friul. Barcarul che tu vens di Barbane, quand calsune l'antic chiampanil, no tu sintis un glon di chiampane, ma un nevos che ti rive dal ciel e l'eterne peraule ti dis, un nevos che traviarse la storie e la glorie del nestri pais. Pellegrine de ultime guerre, mari sante del nestri soldat, che bessole tu entris la sere a prea sotto i pings del sagrat, scolte, scolte la iul rusignul che ti puarte con tante chiarezze la bellezza del nestri Friul. Tal seren di une clare matine, ecco, e rit la marine la infonz, alzei voi, o giarnazie latine, sun che blanche corone di Monz, sul Friul, e ten fede all'idee che no mur, alla sante memorie e alla glorie de nestre Aquilee. Contadin, che tu rompis la fiare di Aquilee, ferme i bus un momento, sotto il chiamp che la guarzine are, sotto la man che semene il forment, tal soreli e tal ombre del nul, è una impronte di Rome, e la storie e la glorie del nestri Friul. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ermete Pelizzari.